Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, valeva giusto la pena di andare sino a Klagenfurt per esportare una nazionale che ha ben poco da mostrare in senso tecnico in questo momento e al cui seguito c'era gente poi di cui possiamo soltanto vergognarci, per pochi che fossero, vergognarci come paese e come popolo. Una ricostruzione della stampa firma Massimiliano Nerozzi. Si erano già fatti riconoscere in altri blitz, il più evidente a Sofia nell'ottobre 2008 per le qualificazioni mondiali con la Bulgaria. Finì tra cori fascisti e razzisti e risse nel centro città con gli ultracomunisti del CSKA. La videoclip andò sulle TV di tutta Europa. Gli ultra erano quasi 200, il numero esiguo di ieri sera non rende più lieve la figuraccia. L'identikit, continua Nerozzi sulla stampa, ripeto, l'identikit degli Ultras Italia è fatto da tempo. Indirizzo politico sull'estrema destra, indirizzo civico nelle province del nord-est, da Verona a Padova, da Trieste a Udine, ma con diramazioni pure in Puglia, Campania e Lazio. Ampia rassegna anche su YouTube, tra decine di filmati con Nino Di Mameli e Braccio Teso. Non hanno un'organizzazione troppo strutturata, si muovono a gruppetti sulle partite all'estero e per questo sono difficilmente intercettabili. Il commento più ampio di Gianni Mura su Repubblica: bravo Balotelli, non tanto per come ha giocato, tra i meno peggio comunque, ma per come ha sopportato una situazione odiosa e inaccettabile. Appena toccava il pallone, i burazzisti dei tifosi romeni trovavano sostegno nei cori di quelli italiani. Quelli che girano foderati nel tricolore aspettano l'inno solo per esibirsi nel saluto romano e poi scandiscono: non ci sono negri italiani. Per queste tracimazioni fognarie, a quanto pare, non c'è daspo che tenga. Ci si può chiedere se questa situazione non sia troppo pesante per un ragazzo che secondo me non doveva esserci in quanto squalificato. Visto che c'era ed è successo quel che è successo, bisogna anche chiedersi chi tutela Balotelli, se non dopo, a parole, il capitano, un ragazzo anche lui o anche lo stesso Prandelli potevano chiedere silenzio. Da Genova a Klagenfurt o non si gioca o si gioca male in clima pessimo. Alla Federcalcio si può chiedere se vale la pena di fare trasferte del genere rinunciando all'apporto dei tifosi normali, calando la squadra in un'atmosfera assurda. Ma non sarebbe meglio giocare sui nostri campi di provincia, da Novara ad Avellino? Questa mi sembra una domanda seria. Comincerei a sentire qualche voce della triste serata di ieri, per esempio quella di Prandelli sui cori a Balotelli. Che dire, una grande delusione, non riesco a trovare le parole giuste perché hai tanta rabbia dentro, vorresti dire veramente qualcosa di forte, ma forse magari è meglio ignorarli. Abbiamo cercato e cercheremo sempre comunque di lavorare per raggiungere situazioni dove l'aspetto della pelle non conta, però purtroppo ci sono sempre, nonostante tutto, delle persone che riescono comunque a far parlare di sé. No, l'ho abbracciato, la prossima volta andiamo in campo lo abbracciamo. La prossima volta, è sempre un po' la prossima volta, però vabbè, è anche vero che per Prandelli questo era un episodio inedito. Sentiamo Balotelli sui cori che lo hanno riguardato. Col tempo ho imparato che la cosa più brutta che puoi fare a una persona che ti insulta è fare finta di niente, quindi non voglio dire niente. Quando una persona che ti vuole bene ti fa qualcosa che non ti piace o che ti fa del male, tu puoi essere arrabbiato o amareggiato. Quando sono persone che non conosci, che non ti interessano, non fa niente, è normale, dispiace. Congediamo anche questa partita con una breve sintesi di Prandelli da un punto di vista tecnico. Abbiamo trovato una squadra molto molto aggressiva, nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di lavorare meglio nei disimpegni, il carattere è stato fantastico perché non volevamo perdere, fino alla fine abbiamo cercato la vittoria. E va bene, queste erano le voci dell'Italia. Non è stata comunque una serata particolarmente allegra anche per altre nazionali, anzi. La Spagna ha perso 4-0 in casa del Portogallo, cioè ha perso 4-0 a Lisbona. E oggi Marca, cioè il principale quotidiano sportivo spagnolo, si domanda a tutta pagina: ma era la Roca? Cioè, erano proprio i campioni del mondo. Basta omaggi, ora di tornare alla realtà, scrive questo quotidiano, che poi ricorda, incredula, che la nazionale campione del mondo è al suo secondo 0-4 nel giro di due mesi, perché il precedente 4-0 gli ha rifilato l'Argentina a Buenos Aires. Quella era un'amichevole, anche questa è un'amichevole, ma insomma 2-4-0 consecutivi per una nazionale in amichevole, per una nazionale campione del mondo, non è il massimo della vita. Anche peggio è andata l'Inghilterra, in particolare a Capello. Ormai la stampa, soprattutto la stampa da tabloid, quindi diciamo pure la stampa un po' eccessiva, britannica, con Capello ha chiuso. Per cui, visto che ieri sera Don Fabio si è presentato allo stadio con un berretto per via del maltempo, stamane lo hanno simpaticamente definito sul Sun come uno stupido col cappello. Dopodiché seguono giudizi tranchant, come direbbero i francesi che hanno vinto, sulla capacità di Fabio Capello di riorganizzare la nazionale inglese, ma in particolare le accuse più dure riguardano la sua scelta di aver schierato per un tempo troppo lungo Gerrard, che è un giocatore rientrato da poco nel Liverpool, che avrebbe bisogno di riposare o comunque di giocare un po' col contagocce. Invece ieri sera è stato impiegato e si è puntualmente stirato, come si sono stirati Chivu e De Rossi nella nazionale italiana. La prognosi di Chivu è di 2-3 settimane, quella di De Rossi, c'è un comunicato arrivato stamane dalla Roma che esclude lesioni. Gli esami diagnostici effettuati hanno escluso lesioni muscolo-tendine. De Rossi ha già iniziato, leggo da questo comunicato, il percorso terapeutico riabilitativo. Rimane il fatto che dalle risultanze, se togliamo il grande gol di Messi, che proprio a fil di sirena ha deciso un decoroso Brasile-Argentina, anzi Argentina-Brasile, se togliamo quello, mi pare che anche questa prodezza dell'attuale più grande giocatore del mondo non basti a stoppare una domanda che si fa sempre più pressante, cioè cosa c'entrano queste amichevoli delle nazionali nel pieno delle stagioni? Non sarebbe meglio per tutti, ma molto meglio, programmarle a fine anno, a fine stagione, in un periodo ampio, magari anche molto ampio di tempo, da dedicare interamente alle nazionali, senza più condizionamenti e senza più considerarle quasi delle intruse? Credo che sarebbe un modo molto migliore di rispettare da una parte i campionati e quindi di conseguenza i club, e dall'altra le nazionali stesse. Un giorno o l'altro ne parleremo più seriamente. Per il momento cominciamo col primo intervallo di oggi, strade e autostrade. Questo è un messaggio che vi leggo in tempo reale, perché è veramente appena arrivato. È firmato Sergio, taxi Milano, e dice: gentile signor Garanzini, oggi tanti tassisti milanesi che abitualmente la seguono non potranno farlo, perché stiamo andando al funerale del nostro fuoriclasse, una brava persona che per comportarsi civilmente ha perso la vita. Anche da questo studio idealmente ci aggreghiamo a questo tristissimo corteo per un episodio indegno di una comunità civile, quale dovrebbe essere la città e quale è sempre stata la città di Milano. Mi ha raggiunto Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo una calendarizzazione, ma questa è una parola troppo impegnativa per me. Abbiamo un menù molto, molto, molto ricco oggi di molti argomenti e tra l'altro variegati. Io li posporrei soltanto di un paio di minuti, perché vorrei ancora sentire la voce intanto di Ciro Ferrara al suo debutto sulla panchina dell'Under 21 con la vittoria sulla Turchia, e poi un paio di frammenti di Michel Platini. Ferrara prima. Siamo soltanto all'inizio, chiaramente, però credo che ci sia stata una buona partecipazione da parte di tutti e 22 i ragazzi. Abbiamo avuto la possibilità comunque di farli giocare tutti, e questo è importante, perché loro credo che abbiano lavorato in questi due giorni in maniera seria, e quindi forse era giusto anche regalare loro una gioia, una soddisfazione. Sempre bello comunque poter rappresentare la nazionale azzurra, e quindi mi immedesimavo anche in quello che potevano essere le emozioni dei ragazzi, che erano veramente molti di loro al debutto, ed è stata una bella atmosfera. Perché la nazionale, domanda Daniele da Milano, ha giocato in Austria con la Romania e a Londra con la Costa d'Avorio in agosto? Come si giustifica il campo neutro per un amichevole? Daniele, un giorno o l'altro lo chiederemo direttamente alla federazione, perché dal mio punto di vista non si giustifica nella maniera più assoluta. E se ancora si può pensare che quello di Wembley comunque sia un palcoscenico di grande prestigio, poi il grande prestigio del palcoscenico deserto è sempre relativo, però insomma, però Wembley è Wembley. Klagenfurt sinceramente si giustifica e si spiega con, per ragioni di cassetta, perché ci sono regioni come per esempio la Carinzia che investono in questo caso, proprio detta in due parole, magari anche un po' non del tutto precise, ma insomma il senso è quello, hanno costruito a Klagenfurt uno stadio per gli europei del 2008, che è una cattedrale, è diventata una cattedrale nel deserto, e quindi cercano di incentivare squadre di varie natura, nazionali comprese, ad andare a giocare lì delle partite. Ma è lecito domandarsi, come ha fatto Gianni Mura, perché non a Novara allora, visto che oggi è una squadra ed è una città in amore, se parliamo di pallone, o altre ad alte latitudini. L'Italia è abbastanza lunga e abbastanza ricca di stadi, sia pure non bellissimi, per non aver bisogno di Klagenfurt. Le voci di Platini. Allora, intanto c'è Platini avverte nell'aria, l'ho detto ieri in un'intervista a Sky, avverte il pericolo delle scommesse. Ne ha parlato l'altro giorno un nostro ascoltatore, lanciando un pallone sonda che non mi era sembrato così gratuito. Sentiamo cosa dice in proposito Platini. Il problema maggiore che devo combattere è un problema nuovo che è arrivato con le scommesse. Quello che tocca al gioco diventa complicato, perché oggi con le scommesse si può anche corrompere qualche giocatore per sapere il risultato. E se il risultato è conosciuto prima della partita, non so perché servono le giornaliste, le tifosi e i giocatori, visto che si sa tutto prima. Dunque dobbiamo fare molta attenzione, lancio un messaggio ai giocatori, alle calciatori, attenzione, attenzione, non distruggete il gioco. Non è un avvertimento da poco, è fatto dal presidente dell'UEFA. Significa che qualche segnale d'allarme evidentemente c'è, perché no, Marco, perché è difficile che un'autorità di questo genere così si esprima gratuitamente su una vicenda così grave. Perché ci sono un po' di inchieste in atto sulle precedenti stagioni, per esempio di Europa League. Per non parlare di quelle in atto relativamente ai campionati dell'est europeo che stanno evidentemente allarmando i vertici della UEFA. Eh sì, e poi invece Platini, vabbè, oltre ad altri argomenti, e uno ritornerà dopo nella conversazione con Marco Bellinazzo, si è anche divertito a rispondere a una domanda sul pallone d'oro e ha fatto una dichiarazione di voto. Tra l'altro credo che i voti siano già arrivati a France Football, perché mi pare che il regolamento preveda che entro il 18 o il 20 novembre insomma già sia arrivato, quindi non credo influenzerà. In ogni caso, se uno si facesse influenzare una dichiarazione di voto, tanto vale che lo faccia il giurato. Ma è interessante il parere di Michel. Due anni fa ho scelto Ronaldo come pallone d'oro, l'anno scorso ho scelto Messi come pallone d'oro, e quest'anno sceglierò Xavi come pallone d'oro, se c'è da scegliere. Perché ha vinto il campionato di Spagna, ha vinto la Coppa del Mondo, è stato importante per la squadra. Schneider ha fatto una bella stagione, fra Xavi, Iniesta, Schneider, uno ha vinto la Coppa del Mondo dell'altro. Fa la differenza degli anni di Coppa del Mondo. E quindi più che dichiarazione di voto è un pronostico questo. Insomma, assomiglia un po' a tutte e due le cose. Allora Marco, entriamo in argomento. Intanto c'è una notizia FIFA di stamane, FIFA, non UEFA, perché poi si tende a fare confusione. Di stamane, secondo cui la FIFA ha multato ed espulso due membri del suo esecutivo, ci sono anche i nomi, ma Adamu e Temari non credo siano molto conosciuti, dopo un'indagine per le accuse di corruzione sull'assegnazione dei mondiali 2018 e 2022. Uno è nigeriano, Adamu, l'altro è un tahitiano, avevano offerto il loro voto prima delle decisioni sui mondiali, sono stati per l'appunto espulsi dalla FIFA. C'è qualcosa anche che riguarda l'UEFA e l'assegnazione degli europei. Cosa facciamo? Ci consoliamo pensando che la corruzione non è soltanto una nostra esclusiva, oppure questo è sinceramente per lo sport mondiale è un altro motivo di allarme? E se il meccanismo di assegnazione è quello che è, giustamente, legato a una democrazia nell'assegnazione delle grandi competizioni, bisognerà abituarsi a questi fenomeni, anche perché ormai il giro d'affari che c'è intorno ai mondiali di calcio, come le Olimpiadi o gli europei, è tale da muovere il PIL di interi paesi, di intere aree geografiche, per cui è evidente che si faccia di tutto per ottenerle queste manifestazioni. Eh sì, quindi... Quindi alla fine ci sta. Allora, l'Italia non ha giocato a Wembley in agosto, ha giocato ad Highbury o ha giocato sul campo del West Ham, probabilmente, sul campo del West Ham, sorry, ma insomma in agosto, sinceramente, circa un mesetto dopo quella meravigliosa conclusione dei mondiali, diciamo che questa amichevole mi era sfuggita, ecco, dal punto di vista del seguirla con grande attenzione. Allora, menù concordato con Marco Bellinazzo. Caso Roma. La Roma ha evitato, per una questione di ore, forse di giorni, il rischio di una penalizzazione in classifica di cui tu avevi, insomma, ci avevi informato tempestivamente qualche tempo fa. Come e perché? Allora, c'erano gli stipendi da pagare entro il 15 novembre, gli stipendi dei mesi di luglio, agosto e settembre. La Roma questi stipendi è riuscita a pagarli con un'operazione finanziaria realizzata grazie all'intervento di Unicredit, che, come sappiamo, ha un ruolo fondamentale ormai nella gestione della società, per cui sono stati recuperati questi 20-25 milioni di euro, grosso modo, con la cessione dei diritti TV. Quindi dei proventi dei diritti TV che la Roma ha messo a bilancio per la stagione 2010-2011 e per quella 2011-2012. Proventi TV futuri. Sono stati ceduti con un'operazione di factoring, tecnicamente consente appunto a un soggetto che ha dei crediti di cederli, crediti futuri, di cederli a un altro soggetto, insomma, che li prende in carico pagando una quota e poi gestendoli, assumendosi per esempio il rischio che il creditore non paghi. Una domanda ingenua: è una prassi eccezionale o è la norma? No, è una prassi abbastanza normale nel mondo degli affari, quello di vendersi prima quello che dovrà incassare il dopo. Il problema è che, essendo la Roma una società in vendita, come si sa, ha nel suo asset anche una serie di crediti futuri, evidentemente anche per esempio i 10 milioni derivanti dai futuri crediti legati alla licenza per i diritti TV della stagione 2011-2012 sarebbero potuti confluire nelle casse dell'acquirente, ma sono serviti evidentemente per pagare questi 12 milioni di euro di ingaggi più 10 milioni di ritenute fiscali, quindi questo dimostra anche, se ce ne fosse bisogno, il peso che ha anche il fisco, insomma, sugli stipendi che le società pagano ai calciatori, e di conseguenza in questo modo la Roma è riuscita a evitare la penalizzazione. Da questo punto di vista, quindi, almeno per il momento, la Roma è tranquilla. La procedura di vendita, come i nostri ascoltatori sapranno, sta andando avanti sempre più velocemente. Ci sono state le offerte dei potenziali acquirenti, il nucleo dei potenziali acquirenti è stato ridotto a 6-7 imprese, società con le quali Unicredit sta parlando per selezionare poi coloro che saranno ammessi, diciamo, allo sprint finale di questa trattativa, che dovrebbe concludersi a questo punto entro l'anno, consentendo il passaggio di società comunque nei primi mesi del 2011, perché non è semplicissimo dal punto di vista burocratico realizzare tutta l'operazione, ma comunque è una strada avviata. Una domanda veloce: Norberto da Bologna ti domanda, sa qualcosa del caso Bologna? Siamo ancora nei guai anche noi? Il Bologna è ancora nei guai, oggi c'è stato il deferimento del presidente, gli stipendi non sono stati pagati entro la data che, ripeto, era il 15 novembre, la penalizzazione è il prossimo step, se evidentemente non saranno pagati in queste ore gli stipendi, insomma una mazzata per il Bologna, 3 punti. Farebbero in meno, insomma, per una squadra che si trova lì a galleggiare verso il fondo della classifica. 3 punti in meno non farebbero piacere a nessuno, però in questo caso, in questa fase della stagione, sono molto delicati. Tutti ci auguriamo ovviamente che questi soldi vengano trovati. Anche se perché lo augurano i bolognesi, perché i diretti concorrenti probabilmente non retrocedere, credo che fino a questo punto di fair play, che come è noto in Italia è praticatissimo, credo che fino a lì non arrivino. Marco, ti interrompo perché sentiamo come va sui mercati e poi abbiamo tutto il tempo di tornarci. Non è semplice orientarsi tra i messaggi di oggi perché sono davvero tanti, però innanzitutto le agenzie hanno appena battuto una notizia e devo dire che il ragazzo Bellinazzo, no, che fa pure rima, evidentemente è informato, perché ha risposto pochi minuti fa a una domanda di un ascoltatore. Le agenzie nel frattempo, prima che rientrassimo in onda, batte la seguente notizia: rischia grosso il Bologna, compresa una penalizzazione in classifica perché è stato deferito a titolo di responsabilità diretta come società insieme al suo presidente Sergio Porcede e all'amministratore delegato Silvino Marras. A seguito di una segnalazione Covisoc, la commissione di vigilanza e controllo sui bilanci del club, i massimi dirigenti del Rossoblu sono stati sanzionati per la mancata attestazione agli organi federali competenti dei pagamenti delle ritenute IRPEF relative ad emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2010. In Serie B il procuratore ha deferito anche il presidente dell'Ascoli Benigni per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi EMPALS relativi agli stipendi di aprile, maggio e giugno 2010. Quindi, Marco, queste due società rischiano, e anzi temo proprio che finirà a quella maniera. Insomma. È grave che appunto ci siano mesi e mesi di arretrati sugli stipendi, sugli ingaggi, e quando parliamo tante volte di fair play finanziario, di necessità di stare attenti ai conti, parliamo poi esattamente di queste situazioni concrete che determinano, certo, fortunatamente anche penalizzazioni sportive, ora al di là delle società che le subiranno, ma è chiaro che soltanto in questo modo si può prendere coscienza del problema che riguarda il calcio italiano in particolare, non solo il calcio italiano, ma evidentemente anche società di Serie A che dal punto di vista finanziario invece dovrebbero essere più solide. Ovviamente. Mirko Capacci, Arezzo. Beh, intanto mi ricorda che l'Italia giocò sul campo del Fulham, per la definitiva precisione dell'ambientazione. No, e invece del West Ham, mi ribatte Franco Piattarini a dire dal vetro. Quindi non era il Fulham, era il West Ham. La domanda di questo ascoltatore aretino è: se con la tessera del tifoso di una squadra posso andare a vedere una partita tra altre due squadre? La risposta è sì, perché la tessera del tifoso, al di là della squadra di appartenenza, è sostanzialmente una carta d'identità per il tifoso doc, quello che non ha subito DASPO, non ha subito condanne per reati da stadio, e dunque lo legittima a entrare nello stadio anche quando ci sono limitazioni, anche quando le due squadre non sono quelle per le quali ha comprato la tessera. Tant'è vero che c'è una tessera della nazionale, sì, come si chiama, i cuori azzurro o qualcosa del genere, non vorrei sbagliare, ma in ogni caso quella per esempio permette di superare tutti i divieti del CASMS e quindi entrare sempre allo stadio indipendentemente da quali sono le squadre in campo. Capito. C'è un ascoltatore che vorrebbe parlare di bilanci di squadre di calcio, insomma di società. Un attimo di pazienza, perché volevo, cercando di andare per capitoli, adesso abbiamo anticipato quello sulla tessera del tifoso, dove, insomma, su cui poi ci dilungheremo. Gli ultimi dati di bilancio di Roma, Inter e Napoli, tu mi hai segnalato, alla luce anche di una allusione che ieri Platini ha fatto, abbiamo sentito due frammenti di intervista a Sky, in un altro frammento che non abbiamo, ma insomma ti riassumo velocissimamente, Platini ha detto non tarderanno molto ad uscire i nomi delle squadre che in particolare l'UEFA ha nel mirino per il fair play finanziario. C'è anche qualche nome italiano. Beh, non sarà la Roma, anche se ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 4,8 milioni, il primo trimestre 2010, non sarà la Roma, perché ci si augura che nel frattempo, insomma, la nuova società ricapitalizzi e metta a posto i conti, insomma, e si riparta da zero. Non sarà il Napoli, lo dico con un certo piacere, come mi ha detto. Per l'accento, può, come dire, far intuire, perché ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2010 con 11 milioni di utile netto, insomma anche l'anno prima c'era stato un bilancio positivo, e dunque quando qualche tifoso è scontento della campagna acquisti non proprio faraonica si può consolare con questi dati, soprattutto se quella squadra magari 5-6 anni fa militava in Serie C, insomma era reduce da un pessimo. Ti stai facendo un discorso allo specchio o ti stai rivolgendo al popolo? È assolutamente riflessivo questo ragionamento. Molto bene. Invece probabilmente si intendeva rivolgersi, come dire, alla sponda di Milano nerazzurra in particolare, che ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2010 con un rosso che è sicuramente inferiore ai 150 milioni dell'anno precedente. Le perdite sono state di circa 70 milioni, con Moratti che ha dovuto ricapitalizzare con 40 milioni il patrimonio dell'Inter. È vero che è aumentato anche il ricavo, il fatturato, anche per i successi che la squadra ha ottenuto, è salita a 323 milioni il fatturato dell'Inter, ma i dati su cui fa perno il fair play finanziario sono quelli relativi appunto al risultato di esercizio. Sì. Il fair play finanziario prevede un limite di 45 milioni di rosso sul triennio, quando poi saranno applicati, evidentemente 70 milioni sfora questo budget. Sì. Soprattutto la possibilità di ricapitalizzare, Moratti appunto ha dovuto staccare un assegno di 40 milioni, non è più consentita, perché le squadre dovranno reggersi su un equilibrio e quindi sui propri ricavi. Evidentemente l'Inter non ha dato un buon esempio finora da questo punto di vista. L'ultima campagna qui si è stata condotta con assoluto equilibrio, i tifosi sono scontenti, la squadra ora non sta andando bene, si parla di tornare sul mercato a gennaio, però se si dovrà fare i conti dall'anno prossimo con l'equilibrio di bilancio, è chiaro che si dovrà invertire la rotta, e forse, come dire, un messaggino a Moratti Platini ha voluto lanciarlo, visto che parlava da reti italiane, insomma, seppure Sky. Certo. Antonello ha chiamato da Perugia, buongiorno. Sì, dottor Garanzini, buongiorno. Io mi sono collegato nel momento in cui l'ospite stava dando voce a queste situazioni di queste società, e la mia impressione, anche la domanda che ponga lei, dottore, è questa: mi sembra che ci siano società di calcio in generale che vadano ad una velocità più di quella che è consentita dalle loro reali casse, e questo mi dà una dimensione di una situazione che secondo me non è più sostenibile, e su cui non so se è materia di intervento dall'alto dello Stato o di qualche altro organo. Resta il fatto che mi ricordo qualche anno fa il famoso decreto spalmadebiti, che poi alla fine non ha aiutato più di tanto, ma che comunque dal mio punto di vista etico fu una vergogna per la gente comune, per chi magari tutte le mattine si alza e deve andare a sbarcare il lunario e non ci sono spalmadebiti se non ha un debito. Resta il fatto che è una situazione che secondo me nel tempo, al di là delle grandi società che con una ricapitalizzazione possono intervenire, se no altrimenti si rischia alla fine come del mio Perugia, proprio per rimanere in questa zona, che quest'anno è ripartito dalle interregionali per vicende proprio legate a fallimenti, bilanci e ballerini. Certo. Volevo da lei un'impressione su questo e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Beh, è molto più autorevole quella di Marco Bellinazzo. Beh, c'è da dire che sono decine le società che ogni anno, anche per questa stagione, hanno dovuto chiudere la saracinesca e ripartire dalle sedie minori, proprio per le difficoltà anche dovute alla congiuntura economica non certo favorevole agli investimenti nello sport. Ne abbiamo parlato tante volte qui, insomma non voglio dilungarmi troppo. Esiste un problema di equilibri seri da ristabilire, altrimenti insomma non si potrà vivere ulteriormente al di sopra delle proprie possibilità, come è stato fatto finora. Arriviamo all'argomento. No, c'è ancora un ascoltatore. Alberto, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Ma una curiosità sul Bologna: ma non è stato di recente acquisito da parte la vendita è stata effettuata dalla famiglia Benarini agli attuali proprietari? Nel caso, diciamo così, di vendita proprietà, non c'è tipo un cuscinetto almeno di qualche mese che dia la possibilità perlomeno di pagare gli stipendi e i contributi? È una domanda che faccio. Lo so, ma vedo Marco che scuote la testa. È stato acquisito dalla famiglia Menarini credo l'80% del capitale. In ogni caso gli stipendi vanno pagati, ogni trimestre la società deve autocertificare alla Covisoc di aver pagato gli stipendi e di aver effettuato le ritenute fiscali. Questo dalla nuova gestione non è stato fatto, ed è lo scenario che si sta preparando, quello di una penalizzazione, perché non pare proprio che questi stipendi arriveranno prima di qualche mese e le regole vanno in qualche modo rispettate. In qualche modo sì. Dunque, noi abbiamo due capitoli adesso da aprire, ma il tempo sta passando e tra poco dobbiamo dare le notizie del traffico. Uno dei capitoli riguarda il doppio sindacato, cioè questo nuovo sindacato calciatori che si è autoproclamato come tale, e l'altro sono approfondimenti sulle vicende di tessera tifoso, e quel genere, grosso modo. Non credo ci sarà spazio per una bella lettera che mi è arrivata dalla Città del Messico a firma Stefano Stoppani, in cui contesta le dichiarazioni di ieri di D'Agostino, secondo cui uno dovrebbe giocare per il paese in cui è nato e soltanto per quello. È molto carina. Se troviamo lo spazio, proviamo a farcela. E se no, cominciamo a sentire come va sulle strade. Proviamo ad accelerare subito Nicola Filippone con la ricostruzione di un 18 novembre. Sembra ieri. 18 novembre 1984. Il Torino di Radice conquista il derby d'andata battendo la Juventus per 2-1. I bianconeri si portano in vantaggio nel primo tempo con una punizione di Platini, ma subiscono a inizio ripresa il pareggio firmato dal terzino Francini. Il gol partita lo segna al 90° il 24enne attaccante Aldo Serena, sorprendendo in elevazione la retroguardia juventina sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Leo Junior. Nella stagione successiva Serena passerà alla Juventus e al quarto minuto del primo derby da bianconero segnerà il gol dell'ex. Credo che Serena detenga tuttora un primato, che è quello di aver giocato e segnato nei due derby di Torino e Milano con tutte e quattro le maglie, che no, non è, sinceramente non è da tutti. Beh, questo sta scherzando, però secondo me questo ascoltatore di cui adesso leggo il messaggio sta palesemente scherzando. Però secondo me merita una risposta che potrebbe essere interessante. Sono il nipote di Mubarak e voglio andare a vedere Milan-Fiorentina. Mi serve la tessera del tifoso? Beh, per il nipote di Mubarak potrebbe essere molto più semplice andarci a vedere questa partita senza tessera del tifoso, perché per gli stranieri credo sia molto difficile ottenerla, perché non si possono fare le verifiche. Quindi il cittadino straniero è comunque abilitato all'acquisto? Sì, si può tranquillamente andare allo stadio, a meno che non ci siano DASPO o provvedimenti restrittivi, ma diventa molto più complicato accertarlo nei suoi confronti. Quindi sarebbe più facile per lui che per un cittadino italiano. Anche questo è interessante. Io tratterei soltanto di passata, per ragioni di tempo, l'argomento sciopero, ma soprattutto l'argomento nuovo sindacato, perché secondo me c'è una fase evolutiva, no, in questo momento. Sì, per quanto riguarda il contratto, le trattative sul contratto, siamo in qualche modo bloccati, c'è la prospettiva di uno sciopero dopo il 30 novembre e vediamo insomma se la federazione nominerà questo commissario ad acta per far incontrare insomma le parti, ma avremo modo di parlarne. Invece lo scenario si è arricchito di un nuovo sindacato, è nato l'ANC, che è tra i propri promotori Gigi Buffon, Davide Biondini, Cristian Doni, ed ha come consulente per la comunicazione Vittorio Feltri, insomma un sindacato nuovo che ha per ora 40 iscritti e che si propone sul contratto di non dire nulla per non spaccare il fronte, ma per il futuro di fare concorrenza all'Associazione Italiana Calciatori, che nel frattempo ha avuto un bel riconoscimento in quanto Leonardo Grosso, che è stato eletto presidente della FIFPROF, che sarebbe il sindacato mondiale dei calciatori professionisti, la scorsa settimana a Kuala Lumpur. Dovrà però invece l'AIC fare i conti, se viene riconosciuta a livello mondiale dovrà in Italia fare i conti con questo nuovo sindacato, che si propone tra le altre cose di uniformare la fiscalità e i contratti dei calciatori in Europa, riportare le famiglie allo stadio, evitare le serali d'inverno perché questo limita lo spettacolo, e tutelare insomma i giovani e l'integrità fisica dei calciatori. Insomma, non credo che l'AIC proponga cose opposte, insomma non so perché sia nato questo nuovo sindacato, ma comunque siamo in democrazia e quindi il pluralismo anche dal punto di vista sindacale è sempre benvenuto. Con tutte le sigle che ci sono in quegli altri sindacati, almeno una alternativa non poteva non esserci. Mi pare che su questo fatto di stadi sempre più deserti arriviamo tra poco da un altro punto di vista. Volevo sentire prima Maurizio dalla Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno, è una domanda per il dottor Bellinazzo e una rapidissima anche per lei. Sì. Fair play finanziario, il povero Bologna, il nuovo presidente del povero Bologna, dopo domani o fra due anni, è il Moratti piuttosto che il magnate del petrolio del Dubai. Il Bologna fattura 50 milioni? Il buon Moratti, il nuovo Moratti piuttosto che il magnate del Dubai ci mette di tasca sua 300 o 400 milioni e quindi in qualche modo va a un tavolo apparecchiato dai grandi club, che è quello dei grandi club che fatturano 300 o 400 milioni, Real Madrid, Inter, Manchester. temo che non ce lo vogliano a questo tavolo, perché il povero Bologna può spendere solo quello che fattura. Domanda, non è l'anticamera dell'europeo per club? Credo che lei abbia colto un rischio, perlomeno, che viene paventato dai piccoli club, non solo in Italia ma in tutta Europa, cioè quello che il fair play finanziario possa in qualche modo cristallizzare l'attuale situazione, per cui i club che fatturano oltre 200 milioni in Europa e quindi possono spendere resteranno tali, i piccoli club saranno destinati a fare da contorno. C'è da dire che sul piano dei principi, il fair play finanziario vorrebbe far crescere le squadre dal punto di vista sportivo, quindi il Bologna, anziché attingere ai 400 milioni del petroliere texano o arabo, dovrebbe avere una gestione sportiva tale da farle ottenere grandi successi e quindi far aumentare il fatturato e quindi consentirle di crescere e di competere da questo punto di vista. Ripeto, se parliamo dei principi che governano o che dovrebbero governare il fair play finanziario, è chiaro che poi i rischi pratici sono quelli di vedere il Bologna che fa sempre il Bologna, l'Inter e il Real Madrid che fanno sempre l'Inter e il Real Madrid. Certo. Grazie Maurizio. Non so se ci sia una correlazione con la sua crescita di 8 centimetri di 8 kg in poco tempo. Beh, questa frase era detta ieri Adriano Galliani riferita a Pato, poiché negli ultimi tempi ci siamo a lungo intrattenuti con personaggi assai autorevoli parlando di preparazione, di infortuni, di rapporti e correlazioni varie. Insomma, questa ammissione da parte dell'amministratore, questa domanda che lo stesso amministratore delegato del Milan si fa in relazione a 8 cm di crescita e 8 kg di peso o di muscoli, se vogliamo, in più di Pato. Mi sono sembrati discretamente interessanti. Ci resta un minuto e mezzo, non so nemmeno se non riusciremo a trattare certamente l'argomento, che rinviamo sin da ora alla prossima settimana, però introducicelo per quello che riguarda appunto il tessere del tifoso, stadi sempre più vuoti, eccetera. Possiamo allora sintetizzarla con una richiesta di chiarimenti, insomma, che lanciamo da qui, perché mi hanno colpito, diciamo, le dichiarazioni del ministro Maroni. Ora non tocca a me polemizzare con Maroni, ci mancherebbe altro, però è da un po' di tempo che appunto valorizzando il lavoro che è stato fatto ovviamente con la destra del tifoso, che ha ridotto di molto gli incidenti e i pericoli legati alla violenza negli stadi, però c'è anche questo richiamo, insomma, ad un aumento degli spettatori, che però contrasta con i dati che sono stati forniti proprio la scorsa settimana dalla Lega, che invece lanciano un allarme sul tasso di occupazione degli stadi, per cui ben 13 squadre su 20 non raggiungono la metà della capienza in media a partita. Ovviamente se si esclude l'Inter, il Milan, il Napoli, cioè squadre che comunque hanno un bacino di utenza molto alto, negli altri casi è molto più bassa. Insomma, la media di spettatori per il Lecce, per esempio, è di 7.700 spettatori. Guarda Marco, io vedo scorrere i secondi, e allora ti rinvierei direttamente a martedì / mercoledì della prossima settimana, partendo da questo dato e poi ovviamente saldandolo a tessere del tifoso e a tutto il resto, perché questa mi sembra che valga da solo una puntata come discorso. C'è tempo soltanto per due messaggi. Marco D'Alessandria scrive: Serena detiene anche il record di aver baciato le maglie di Torino, Juventus, Inter e Milan. Ed è vero fino a un certo punto, Marco, perché a quell'epoca le maglie si baciavano meno, ci faceva un po' di cinema in meno rispetto a oggi. Un altro ascoltatore domanda se è vero che Ibra si è iscritto alla FIOM, e anche questa non è male. Oggi erano particolarmente spiritosi i nostri ascoltatori. Grazie a Marco Bellinazio, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Franco Piantanida in redazione, Giornale Radio.